Questi erano i Lindsay White con Equinox, un altro brano in Creative Commons. Abbiamo qui con noi un altro ospite di questa lunga carrellata pomeridiana ed è il presidente del CAI di Ivrea, Giovanni. Ciao. Ciao. Come stai? Tutto bene, grazie. La giornata sta procedendo come la si immaginava? Sì, tutto molto bene, tanta gente allegra, una bella festa. Bene, bene. Di che cosa vi occupate qui oggi agli Eporedi Active Days come CAI? Qui oggi abbiamo montato una struttura di arrampicata per far arrampicare soprattutto i ragazzi, ma anche gli adulti che hanno piacere di provare questa disciplina. Ho capito, perché è di questo che vi occupate durante tutto l'anno. L'arrampicata è un tema importante, ma non è l'unico, corretto? Noi ci occupiamo di montagna, il club alpino italiano, fondato da Quintino Sella 150 anni fa, si occupa dello studio, della frequentazione della montagna. Quindi diciamo voi ponete particolare attenzione anche sulla sicurezza, una sicurezza che permette poi di vivere la montagna con il giusto approccio. Certo, uno dei nostri scopi sociali è quello di organizzare corsi per permettere ai soci e ai non soci di avvicinarsi alla montagna e di fruirla con la maggior sicurezza possibile. Quindi ciaspolate, camminate? In tutte le discipline, ciaspole sia una disciplina relativamente nuova, escursionismo classico estivo, alpinismo, arrampicata appunto, e anche mountain bike, anche questa disciplina abbastanza nuova. Anche mountain bike, quindi. Il tema della sicurezza che tu hai nominato è un tema che abbiamo sentito molto frequente e molto sentito in questa giornata. Certo. Quando parliamo di montagna, poi immagino che sia proprio una prerogativa della montagna. La montagna, cioè, la montagna può essere pericolosa, c'è ovviamente sempre una parte imponderabile lasciata al caso, ma noi dobbiamo fare in modo che questa parte lasciata al caso sia il più basso possibile, quindi procedure, attrezzature, atteggiamenti mentali corretti per cercare di evitare spiacevoli incidenti. Oggi nello specifico, quindi, ricordiamolo, cosa state facendo? Oggi stiamo facendo arrampicare decine di ragazzi su una struttura di arrampicata, una struttura artificiale ovviamente, che abbiamo montato per questi due giorni. I bambini stanno divertendo tantissimo, e tutto il giorno che li vediamo alle nostre spalle, perché la struttura è proprio dietro le nostre spalle, stanno veramente divertendo, poi si appendono con queste funi, perché ovviamente, ritorno al discorso della sicurezza, c'è chi li tiene, quindi arrivano in cima e poi si lasciano andare. Certo, ovviamente questa è un'attività prettamente ludica, poi l'arrampicata in ambiente presuppone che ci sia autonomi nel fare delle manovre, ma in questo caso è un gioco ed è giusto che sia fatto perché, in modo sicuro. Perché quando uno vuole approcciarsi all'arrampicata, il primo passo è la palestra di roccia o no? O non necessariamente? Ma negli ultimi anni praticamente ci si avvicina attraverso la palestra, che comunque è un ambiente dove è possibile fare esperienza. Poi la montagna è comunque una cosa diversa rispetto alla falesia, alla palestra di roccia. Ecco, ma per gli ascoltatori che qui nella zona, nel Canavese, che volessero approcciarsi all'arrampicata, qui in Canavese quali sono le palestre più frequentate, naturali e in palestra appunto? Beh, io comincio per prima a nominare la palestra della Scuola di Alpinismo del CAI di Ivrea, che è la palestra di Traversella, il rifugio Bruno Piazza. Negli ultimi anni è stata attrezzata una bella struttura a Montestrutto, alla Turna, e anche qua vicino, sia a Montenero con vie di arrampicata un po' più difficili o al lago di Montalto, ci sono alcune vie attrezzate. Questi sono gli ambienti naturali. Poi ci sono delle palestre indoor sul territorio, qua vicino a Ivrea ce ne sono un paio.